detenne se anime alla ricerca, perdita di rimedi, trussagli di pendenze. La cracca robe troppo annegano memorie di storie, ricercando il fresh lover. Divergenti arme deragliano sopra il loro spiccare volo da suolo. Solo il corpo rosso brama il sangue da loro. Diabolica, il tuo amore che supera l'irica, la strada del disincanto, non lasciarmi il nostro incanto, incanto intorno sul ponte dei suicidi, l'ultimo canto intonando l'acqua a sollevare te mentre gettando me. Divengo spazzatura di memoria in un'dimenticanza di tempo mentre te vestita dei fiori di inchiostro ti fa eterno nelle mie ultime terre raccolte con le ossa a scavare lo schianto. Tra la polvere rossa mossa da fili di collane di diamante, io difendo fango, di schianta tutto, troppo inganno, le bugie, la marci, marci, nostro fuori dal cuore mio, mai ti riporteranno a vero disincanto. Strade della rete, dentro stagne di prendesse.